Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro decimo, versi 243-502. Il poeta Orfeo sta cantando agli alberi e agli animali, frattante, la favola delle oscene propetidi, donne di Cipro che si ricusano al culto di Venere e Venere punisce cambiandole in prostitute. Avendo le Pigmalione viste menar quella vita infame, schifato dai troppi vizi di cui la natura ha fornito la donna, celibe campa, non vuole sposarsi, così che per molto tempo nel suo letto dorme da solo. Ma poi si mette a scolpire con arte suprema un avorio bianco neve in forma di donna, della donna più bella di tutte le donne possibili, e al dunque sei innamorato di lei? All'aspetto di una ragazza vera, e diresti che è viva se un eccesso di timidezza non le impedisse di muoversi. Tanta è l'arte che non si vede. Sbalordisce Pigmalione e il cuore gli brucia dentro per quel corpo tutto illusorio. Spesso passa sopra la statua una mano per rendersi conto se sia carne o avorio e non vuole rassegnarsi all'avorio che è. Le dà baci e gli sembra che lei glieli renda, le parla, la abbraccia e si convince che là dove tocca le dita gli affondino e teme che la pressione le lasci il livido addosso. Una volta le fa complimenti, un'altra regali che piacciono alle ragazze, conchiglie, sassolini rotondi, uccellini e fiori di mille colori e gigli e palle dipinte e lacrime d'ambra gocciate dagli alberi delle Eliadi, e le veste il corpo di splendidi vestiti, alle dita le infila brillanti, al collo le mette collane lunghissime, gocce di perla le appende agli orecchi, sul petto nastri e nastrini. Tutto le dona, ma nuda non è meno bella. La stende su tappeti tinti col rosso di Sidone, la chiama sua sposa e le poggia il collo sul morbido di cuscini di piuma con la massima delicatezza, come se lei si accorgesse. E arriva la festa di Venere, che a Cipro festeggiano tutti. Diverse giovenche con corna ad arco vestite d'oro, colpite sul candido collo, son già stramazzate, gli incensi fumano e quello, deposte le offerte sotto l'altare, sta lì impacciato e sussurra: «Dei che tutto potete accordare, accordatemi in moglie». Non si sente di dire la vergine d'avorio, una vergine che somiglia a quella d'avorio. Coglie bene Venere d'oro, che presenzia alla propria festa, il senso di quella supplica, e in segno del suo benestare una fiamma freme tre volte e drizza la cresta nell'aria. Tornato a casa, lui corre dalla statua della sua bella, si piega sul letto, la copre di baci, avverte un tepore, riaccosta la bocca e a due mani le palpa il seno. Palpato l'avorio si ammorbidisce, ha perso la sua rigidezza, cede sotto le dita come la cera del monte Imetto, che al sole ritorna duttile e alle tante pressioni del pollice si presta a modellarsi nel modo che serve a chi preme. Trasecola, ma non sa se gioire, ha paura di illudersi, e palpa e non fa che palpare l'oggetto del desiderio. Sì che è corpo, lui sente le vene trepidargli sotto le mani. Allora il nostro eroe leva a Venere un indirizzo traboccante di gratitudine e finalmente la bocca si incolla a una bocca vera, la Vergine sente quei baci e diventa rossa ed alzando timidi gli occhi alla luce, vede in un'unica volta il cielo e l'uomo che l'ama. La dea assiste alle nozze che ha propiziato e la luna 9 volte ha riempito la falce, completando il disco che lei mette al mondo una bimba, Pafo, di cui il nome dell'isola. Da Pafo nacque quel Cinira che, non avesse avuto figli, poteva contarsi fra i più felici del mondo. Sto per cantare un orrore. Scostatevi, figlie, scostatevi, padri. E ove questo mio canto dovesse sedurvi, non datemi ascolto, pensate che questa è tutta una storia inventata. Ma se ci credete, dovrete credere pure al castigo. Se peraltro natura ci lascia assistere a cose del genere, mi congratulo con i traci, con questa parte del mondo, col nostro paese, di essere tanto lontani dai luoghi di tanta scelleratezza. La remota Pancaia produca montagne di amomo, cannella, profumi d'oriente, l'incenso che trasuda dal legno e tutti i fiori che vuole. Ma perché la mirra, una pianta che non merita niente? Amore stesso ricusa di averti ferita lui e le sue torce scagiona del tuo crimine, mirra, che ha contagiato con fuoco di stige e veleno di serpe una delle 3 erinni. Odiare il padre è un delitto, ma amarlo in questa maniera è peggio. L'aristocrazia ad ogni paese, la meglio gioventù dell'Oriente, non sognano che il tuo letto ambitissimo. Prenditi per marito uno fra tutti, purché fra tutti non sia proprio quello. Lei lo sa bene e combatte questa sua turpe passione. Ma cosa mi viene in mente? Dove voglio arrivare? Si chiede. Dei, vi imploro, ti supplico, sacro rispetto dei padri, impedite l'infamia, opponetevi a questo delitto. Concesso che di delitto si tratti, la pietà peraltro di figlia non condanna un amore del genere. Si accoppiano gli altri animali senza rimorsi di sorta. Non si vergogna la vacca di farsi montare dal padre. Il cavallo sposa sua figlia, il capro incinge le capre che ha generato e la femmina dell'uccello anche lei concepisce con chi un giorno l'ha concepita. Beati quelli che possono. Gli scrupoli umani han prodotto leggi malevole e ciò che natura consente, l'invidia del codice non lo consente. E ci sono, mi giurano, popoli presso i quali la madre copula col figlio, la figlia col padre, e la tenerezza domestica raddoppia con la passione. Povera me, che non mi è capitato di nascere lì e ho questa disgrazia di patria. Ma da cosa mi lascio assillare? Sparite, speranze vietate, che meriti di essere amato e certo, però come padre. Così, se figlia non fossi di Cinira il grande, potrei andare a letto con Cinira. Ora invece che è mio, non può essere mio, che lo stesso legame di sangue mi ostacola. Fossi di un altro, avrei più risorse. Voglio fuggire lontano, lasciare la terra dei padri, pur di sottrarmi all'obbrobrio. Ma questo amore cattivo mi frena. Se resto è soltanto per vedere Cinira, per toccarlo, parlargli, baciarlo, non potendo fare di più. E tu stai sperando davvero in questo di più, sciagurata? Ti accorgi di quanti vincoli, di quanti nomi confondi? Essere vuoi la rivale di tua madre, l'amante del babbo? Chiamarti sorella d'un figlio e mamma di tuo fratello? Non temi le nere sorelle che, scarmigliate di serpi, si avventano sul peccatore e con quelle fiaccole orrende gli bruciano gli occhi e la faccia. Ma, visto che il corpo non è contaminato, perché fantasticare e, sognando un coito proibito, violare le leggi della natura? Tanto anche io volessi, il reale si opporrebbe, così timorato e casto è mio padre. Ah, potessi contagiargli la mia bramosia. S'è sfogata e Cinira, alquanto perplesso per l'abbondanza dei pretendenti di rango, glieli elenca nome per nome e chiede a lei stessa con chi vorrebbe sposarsi. Lei dapprima non dice parola, fissa in faccia suo padre, brucia dentro e le si irrorano gli occhi d'un tiepido pianto. Pensando la cosa, doversi a pudore di vergine, Cinira «non piangere», dice, le asciuga le guance, la bacia. Mirra troppo ne gode e, richiesta di come le piacerebbe il marito, risponde «identico a te». Si compiace suo padre di quelle parole, ma senza capirle bene. Rimani sempre così rispettosa. A sentir nominare il rispetto filiale, sentendosi in colpa, la giovane abbassa gli occhi. Il sonno in mezzo alla notte sommerge corpi e pensieri, ma la figlia di Cinira non chiude occhio e, posseduta da un fuoco indomito, torna alle proprie ossessioni. Un momento si dispera, un altro decide di tentare. Poi si vergogna e smania e non sa cosa fare. Tu immagina un tronco ferito dalla scure che nell'imminenza del colpo di grazia oscilli e non sai da che parte stia per crollare e scappano tutti. Così la sua fragile mente, vessata da tante mazzate, pencola ora in un verso, ora nell'altro e non vede per quell'amore altro termine che la morte, non altro sollievo. Buona la morte. Si alza decisa a infilare la testa in un cappio e, fissata la cintola a uno stipite della porta, carissimo Cinira, addio, capirai perché sono morta, mormora al pallido collo adattando il nodo scorsoio. Raccontano come il brusio di queste parole giungesse all'orecchio della sua balia che vegliava dietro la porta. La vecchia si alza, entra nella stanza. Vedere allestito quell'apparato di morte e cacciare un urlo e picchiarsi il petto e stracciarsi le vesti e sfilare quel collo dal cappio facendolo a pezzi è tutt'uno. Solo dopo si mette a piangere, la abbraccia forte, le chiede perché voleva impiccarsi. La fanciulla non apre bocca, fissa per terra, crucciata per il tentativo interrotto di quel suicidio mancato. Insiste la vecchia, si scopre i capelli bianchi e gli inutili seni e, invocando la culla, le prime poppate, la supplica di confidarle per cosa soffre tanto. Quella si gira dall'altra parte e sospira, ma la balia vuole sapere, promette il silenzio ed in più le dice: parla e permettimi di darti una mano, son vecchia, d'accordo, ma non da buttare. Deliri, conosco una donna che ti cura con erbe e incantesimi. Qualcuno ti ha fatto il malocchio, te la cavi con una magia. Gli dèi ce l'hanno con te, li calmi con un sacrificio. Che dire di più? Non ti mancano di certo i mezzi e in famiglia tutto va per il meglio. Tua madre è viva ed è vivo tuo padre. Sentendo padre, Mirra caccia un sospiro dal fondo del petto. Nemmeno allora la balia sospetta qualcosa di male, sebbene intuisca trattarsi d'amore. Cocciuta la implora perché le racconti tutto, qualsiasi cosa. E se la prende che piange sulle sue vecchie ginocchia e, stringendo quel corpicino fra fragili braccia, sussurra: «Ho capito, sei innamorata, ma niente paura, io sarò dalla tua parte, contaci come sempre, e non dirò nulla a tuo padre». Mirra si strappa furente all'abbraccio, schiaccia la faccia contro i cuscini urlando: «Vattene via, risparmiami questa vergogna». Quella insiste: «Vattene o smetti di frugare nel mio dolore. Tu stai scoprendo un delitto». Inorridisce la vecchia, protende le mani che tremano di spavento e d'età, le cade ai piedi umilmente. A momenti la blandisce perché confessi, a momenti le mette paura, minacciando di riferire del cappio e del tentativo di impiccarsi, e le giura di aiutarla se si confida. Alza la testa Mirra e inonda di lacrime il seno della balia, e più volte è sul punto di confessare, più volte si trattiene. Poi, nascondendo il viso per la vergogna nel vestito: «Beata te, mamma, che l'hai sposato», sospira e tace in un gemito. Un brivido di ghiaccio infilza la balia, che adesso ha capito, e le penetra dentro le ossa, su tutta la testa. I capelli bianchi le si drizzano, si irrigidiscono, e per stornare, se può, quell'amore tremendo, le dice moltissime cose, ma lei lo sa che la vecchia ha ragione. Però, se non può sfogare quell'amore, vuol solo morire. Allora la balia: «No, vivi e avrai, ma dire tuo padre non osa, e col giuramento ratifica la promessa». Le pie signore del luogo stan celebrando le feste annuali di Cerere, tutte velate di bianconeve, le offrono come primizie dei suoi raccolti ghirlande di spighe, e per 9 notti si astengono da qualsiasi contatto col maschio. Frattante non manca Cencreide, la moglie del re, che frequenta anche lei quei riti misterici. Ed ecco che, come la sposa legittima diserta il letto nuziale, la balia, zelante a sproposito, trova Cinira ottuso dal vino e gli parla, senza far nomi, d'una che lo ama di brutto, decantandone la bellezza. «E quanti anni ha?» lui le chiede. «Quanti, Mirra?» risponde lei. Lui le ordina di portargliela. Lei torna da Mirra e le dice: «Fa festa, bambina mia, ce l'abbiamo fatta». La povera figlia però non gioisce completamente. Nel cuore le si annida un presagio, però gioisce lo stesso, talmente ambiguo e mutevole è il cuore. Era l'ora che tutto è silenzio, e fra le stelle dell'Orsa Boote ha orientato il tragitto del carro, inclinando il timone, e lei si dispone al misfatto. La luna dorata diserta il cielo e nuvoli neri coprono stelle furtive. La notte s'è spenta e tu, primo Icario, il viso nascondi con Erigone, resa immortale dal suo tenero amore di figlia. 3 volte il piede che incespica le ingiunge la via del ritorno, 3 volte lugubre il gufo col suo canto di morte la avvisa. Lei va lo stesso. La tenebra attenua la sua vergogna. Con la mano sinistra si tiene alla mano della sua balia, con l'altra esplora a tentoni il buio. È già sulla soglia della stanza, già apre la porta, già si lascia portare dentro. Le gambe le mancano, tremano le ginocchia, sangue e colore dileguano. Lei va lo stesso, ma il coraggio l'ha abbandonata. Più si avvicina al delitto, più inorridisce e si pente di aver osato, e vorrebbe, sconosciuta, tornarsene via. se lei prende tempo, la vecchia, tirandola per un braccio, la trascina al bordo del letto, la consegna e Cinira, dice, prendila, è tua. E in un coito dannato accoppia i due corpi. Oscenamente il padre si prende nel letto la carne della sua carne e si adopera a sedarne i timori di vergine. Forse l'età gli succede di chiamarla figliola e da lei di chiamarlo papà, che all'incesto nemmeno manchino i nomi. Lei lascia il letto paterno incinta, ospitando quel seme maledetto, si porta in corpo il corpo del suo delitto. La notte dopo il misfatto si replica e non è l'ultima. Ma Cinira, a un certo punto, dopo tanti incontri, curioso di sapere chi sia quell'amante, prende il lume, lo accosta e si accorge dell'obbrobrio e di sua figlia. Tramortito inghiotte la voce e sguaina la spada dal fodero che gli pendeva sul letto. Mirra fugge, protetta dalla cecità della notte, riesce a sottrarsi alla morte e vagando si lascia alle spalle le pianure della Pancaia e i vasti palmizi d'Arabia. 9 volte riappare la falce della luna e lei scappa ancora finché stremata si ferma nella regione di Saba, portando a fatica la pancia. Ma non sa a che nume votarsi, combattuta tra la paura della morte e il tedio di vivere, formula questa preghiera. Se fra tutti c'è un Dio che ascolta chi ammette un delitto, sì, io questo strazio lo merito e lo accetto, ma per evitare che vivendo io contamini i vivi e da morta i morti, bandita da entrambi i regni, cambiatemi in altro e risparmiatemi insieme e la vita e la morte. Un Dio pronto a dar retta ai rei confessi, o almeno disposto ad esaudire la chiusa della supplica, c'è. Tanto vero che lei parla ancora e la terra le sale ai ginocchi, le unghie dei piedi buttan radici storte d'un lungo fusto, le ossa diventano legno, seppur conservando il midollo, il sangue va in linfa, in grandissimi rami le braccia, in rametti le dita, la pelle indurisce in corteccia e crescendo la pianta ha già imprigionato la pancia gravida, ha già seppellito le mammelle e le sta per stringere il povero collo. Impaziente, non aspetta un attimo Mirra, già si china, già si abbandona al legno che sale ed affonda il viso dentro la scorza. Ma per quanto quel corpo abbia perso i sentimenti d'un tempo, piange lo stesso e dal tronco trasudano tiepide gocce. Onore alle lacrime. Quelle spillate da quella corteccia hanno un nome che non si dimentica. Mirra, il nome di lei.